Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Una delle abitudini classiche di Pasqua è la passeggiata pomeridiana in compagnia di parenti e amici. Per qualcuno rappresenta forse l'unica occasione durante l'anno, per altri un'abitudine quotidiana che ognuno vive a modo proprio. E tra gli abitudinari della passeggiata ci sono personaggi illustri, come racconta Giuseppe Scarafia dalle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore. Un esercizio moderato con cui ci si trasferisce lentamente e per ricreazione da un luogo all'altro. Così la definisce l'Enciclopédie Riflesso della Civiltà dei Lumi. Ma ci sono tanti tipi di passeggiata e di passeggiatori. Ci sono gli abitudinari, come Thomas Mann, che ripeteva sempre lo stesso itinerario, da lui chiamato pista, accompagnato dal suo cane. Una scorta amata anche da Virginia Woolf nelle sue passeggiate in campagna. Le bastava liberare un momento Tinker per vederlo saltare sopra i muri, per infilarsi nelle porte aperte. Sembrava un folletto alla ricerca di qualcosa di introvabile. Ci sono i contemplatori, come Joyce, che a Trieste percorreva instancabilmente il lungomare, passando in rassegna le barche. Cammina per restare solo con se stesso, anche se, commentava maliziosamente Svevo, forse ci vede ancora meno di quanto si possa supporre. Ma il più celebre è Rousseau, che nelle fantasticherie del passeggiatore solitario esalta il valore terapeutico dello spettacolo della natura. L'immagine assorta di Jean-Jacques, con un lungo bastone da passeggio e un mazzo di fiori in mano, si diffonderà in tutta Europa. Niente di più singolare dell'estasi che provavo osservando la struttura vegetale. Un sentimento non condiviso dal poeta Rilke, che, passeggiando con Freud, aveva confessato di essere turbato dal carattere effimero della bellezza della natura. Il padre della psicanalisi, che ogni giorno, dopo un rapido pasto, faceva una passeggiata fra le vie di Vienna, preferiva invece le lunghe camminate in montagna. Ci sono i maniacali, come Kant, che usciva ogni giorno alle 7 con l'abito grigio e la canna d'India in mano per il suo giro consueto, per poi fare una nuova sortita dopo pranzo. I vicini sapevano che erano le 3:30 in punto quando lo vedevano avviarsi verso il viale dei Tigli. Altrettanto preciso, Simenon faceva una lunga passeggiata dalle 9 alle 12, poi di nuovo dopo la siesta, questa volta insieme alla moglie. Ci sono quelli che passeggiano in giardino, come Goethe, che in una vestaglia chiara camminava orgogliosamente con le braccia dietro la schiena e la pancia in fuori, o come Flaubert, che dedicava all'esercizio mezz'ora sotto i vecchi tigli del viale di casa. Ma anche un giardino può riservare delle sorprese. Proust stava passeggiando tra le aiuole di una signora quando smise di parlare e si bloccò. Riprese a camminare e si fermò di nuovo. «Vi spiace se rimango un po' indietro? Vorrei rivedere quei piccoli rosai». Poco dopo era ancora lì, vicino alle rose, assorto in una delle misteriose folgorazioni che lo visitavano a tratti. Ci sono i flaneur, che preferiscono le città. Nerval la percorreva di notte, Baudelaire la esplorava senza sosta. Apollinaire prediligeva il lungo fiume, dove diceva i bouquinistes, i venditori di vecchi libri, mantengono la senna. Benjamin sapeva che il modo migliore per conoscere una metropoli è perdersi. Ma ci sono anche i bizzarri, come Balzac, che amava i vialetti dell'elegante cimitero parigino del Père Lachaise, trovando tra le lapidi i nomi adatti per i suoi personaggi. Un'esperienza ripresa da Choran, che la consigliava come un'infallibile medicina interiore. Lì tutto quello che succede assume proporzioni normali. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giuseppe Scarafia dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Un istituto scolastico di Manchester ha trovato il sistema per sconfiggere il bullismo, riscoprire il metodo Montessori, e il profitto degli allievi è cresciuto del 20%. Il suo valore didattico, spesso contestato e discusso, è agli atti. Sono stati educati con il metodo Montessori Bill Gates, i fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, il creatore di Amazon Jeff Bezos, il padre di Wikipedia Jimmy Wales, il Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez. Ora però si parla della potenziale efficacia del sistema messo a punto più di 100 anni fa dal medico Maria Montessori anche per contrastare il bullismo. Una scuola statale di Manchester, del quartiere più degradato, Gorton, 5 anni fa si è convertita, grazie a un finanziamento pubblico, alla libertà pedagogica, teorizzata dalla scienziata italiana, e adesso, dopo un tempo ragionevole, fa il primo bilancio. Profitto cresciuto del 20%, alunni aumentati da 348 a 461, bambini meno capricciosi e più collaborativi. Un risultato subito enfatizzato dall'Independent, vista l'ipersensibilità del governo britannico al problema della criminalità infantile. Il metodo Montessori ha un potenziale notevole se applicato correttamente dagli educatori, anche nelle direzioni verso la quale si è mossa l'esperienza inglese. Pur avendo più di un secolo, la sua forza è attuale e immutata. Interviene per primo il pedagogista Cesare Scurati. E con lui è d'accordo lo storico collega Mario Lodi, che ricorda uno dei punti cardini dei sistemi dei Maria Montessori. I bambini si devono trovare a scuola come a casa, in un ambiente su misura per loro, senza imposizioni, liberi di esprimersi e di scoprire i propri talenti. Sono convinto che il metodo sia nato proprio per recuperare tutte le devianze in famiglia e a scuola. Non mi sorprende l'esperienza di Manchester. Socializzare attraverso i riti quotidiani come apparecchiare e sparecchiare la tavola, mettere in ordine, spostare le sedie senza fare rumore, curare l'orto o il giardino, stare in silenzio, esplorare gli spazi comuni. Ecco alcuni dei cardini della pedagogia montessoriana. Sono meno di 200 le scuole in Italia, 22.000 in 110 paesi. La grande caratteristica e qualità di questo impianto educativo sta nel favorire la concentrazione attiva. Il bambino impara dai suoi sforzi e dai suoi errori. Farlo crescere in un ambiente collaborativo serve a prevenire il bullismo nella misura in cui l'alunno impara a darsi un obiettivo e si impegna per raggiungerlo. La sua gratificazione arriva dalla competenza che va acquisendo. Così non sentirà più il bisogno di prevaricare gli altri, spiega la psicologa dell'età evolutiva Anna Oliverio Ferraris, che però precisa: hanno valore tutti i metodi attivi, dunque anche quelli di Don Milani o di Johann Heinrich Pestalozzi. Attenzione a non farlo diventare un metodo taumaturgico, avverte infatti Giuseppe Bertagna, principale ispiratore della riforma Moratti. Fare sillogismi o determinismi in questi casi non solo è possibile, ma dannoso. Sono tutti buoni per ciò che dicono e non buoni per ciò che non dicono. Don Milani ha ottenuto risultati straordinari, ma non lesinava sui ceffoni. Il metodo Montessori è ottimo e ha qualità, ma va contestualizzato. In sé per sé dice poco senza l'entusiasmo dei docenti che lo applicano e il sostegno e l'approvazione dei genitori che mandano i figli da quegli insegnanti. Neppure lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati crede nell'assolutezza del metodo Montessori. Il successo inglese non penso sia legato alla Montessori in particolare, ma più in generale al cambiamento del sistema educativo. È sempre positivo passare da un metodo a un altro, si crea un piccolo shock che porta a dei risultati. Io l'ho sperimentato con i miei ragazzi della Città dei Ragazzi, che sebbene più grandi degli alunni di una elementare, mi hanno aiutato a superare il ruolo codificato dell'insegnante e a mettermi in gioco cercando un nuovo modo di comunicare autentico, che superasse la finzione pedagogica. Lo psicoterapeuta Fulvio Scaparro è addirittura più netto. In una scuola inglese ha portato buoni frutti? Alleluia! Mi pare però che da un punto di vista scientifico non provi nulla. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elvira Serra, La ricetta antibullismo per i ragazzi delle scuole. Riscoprire la Montessori, dal Corriere della Sera del 29 marzo. Finalmente libere, dopo secoli di dominio maschile, le donne sono ora sottomesse a una tirannia ben peggiore, quella esercitata dai propri figli. La popolazione italiana sopravvive decentemente perché rinuncia a fare figli, dice il rapporto annuale sulla famiglia del CISF, Centro Culturale di Famiglia Cristiana. Questioni economiche, naturalmente. Dovendo possedere l'ultimo modello di carrozzina olandese pensata per esplorare i boschi canadesi o passeggiare sulla cordigliera delle Ande e rifiutandosi di accettarla in prestito dall'amica che con l'uso ha leggermente consumato le ruote, un figlio costa troppo. Dovendo egli indossare esclusivamente tutine in cotone organico ed inverno riscaldarsi con un buon cashmere riciclato non nel senso di non acquistato, riciclato nel senso di più costoso perché ecologico, soltanto Angelina Jolie può permettersi di fare e adottare figli. Bambini griffati come Suri, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, costretta a 4 anni a portare i tacchi e mini borse Chloé. Credere di dover crescere figli così, piccoli despoti loro malgrado, è un grandioso deterrente. Non è soltanto una faccenda di denaro, è un fatto culturale. È il senso di oppressione contenuto nell'ideale dei genitori moderni e perfetti, della madre che cuce bambole steineriane per il corretto sviluppo psico-emotivo dei piccoli, lava i pannolini a mano. Tra la vita degli alberi e la libertà delle ragazze non c'è gara, però. Allatta fino a quando il ragazzo va alle medie per dargli anticorpi e sicurezza, compra solo uova ancora calde di gallina con certificato di sereno razzolamento, sviene quando incontra il male assoluto. Gli omogeneizzati già pronti. Ecco la risposta. Dai al bambino un biberon e fatti un bicchiere di vino e una sigaretta, poi torna ai pannolini usa e getta, alle pappe industriali e trova il modo di riprenderti la tua vita. È la visione di Elisabeth Badinter, una filosofa francese che ha scritto Le Conflits, La Femme et la Mère, in cima alla lista dei bestseller in Francia. Le donne sono passate da secoli di dominio maschile a una tirannia ancora più pericolosa, quella dei loro figli. Elisabeth Badinter spera nel ritorno al vecchio modello francese, un po' più rude forse, latte in polvere, asili nido, eccetera, ma che impediva ai bambini di appropriarsi completamente della vita delle madri. Quella dei padri, mutabile nella storia delle conquiste sociali, viene sbrigata così. Sono contenti, si siedono e guardano il calcio. Questo libro ha suscitato le furie di attivisti dell'allattamento, di alcune associazioni ecologiche e religiose, di femministe New Age, di pediatri e antiimperialisti che hanno accusato l'autrice, 66 anni, 3 figli, molti nipoti e la sigaretta in bocca, di essere una prezzolata al servizio della Nestlé. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Piccoli mostri, dal Foglio del 25 marzo.